La cosa più importante è la lotta. Emergency. Yeah, can you please send rescue? I think I'm having an overdose at the store with my wife. Overdose of what? Spazio, estate, viaggi. Decima. E ultima puntata. Da Cusco a Lima, Perù. Stiamo conectados con Spazio State. Manan pipas kawanchu, manan imatapas. Atini churu aita, rimaita munani. Concerto Don Pierce, spazio estate. Hawani Haneman tu tapika Skype Hawani Achkita Hinaptu Yarini Hati Nishanta Manan Pipaska Wanchu Manani Mata Pasati Nichu Ruai Tarima Itamunani Aparis Pami Tukui Runa Mana Uyarin Kuchu Nimas Kaita. I am Ben Harper. No, son paleta de pancreas y anch'io ascolto estate viaggi. Inas Panini Aparis Akmi Tukui Kaipai Wan Ima Manan pipas kawanchu, manan imatapas Atini churu aita, rimaita munani Aparis pa'ami, tukuiru na manan huyari kunchu. Bonjour, je suis Aurore, la chanteuse de Son Soleil. Depuis les montagnes colombiennes, moi aussi j'écoute Spazio Estate sur Radio Onda d'Urto. Y más que está, ginas pandi, y ni japaris jami. Echa japarita, su magta taquisa, chenatan, huyari jacu, una kuna, ya que es ga, awani, aswana na aita. Mimi, nina y tua margherita, sasai vini po Tanzania. Nina indelea, cusi kiliza spazio estate, ataku toca apa. Ciao, siamo Bless the Ladies e anche noi da Bruxelles ascoltiamo Spazio Estate. Oh yeah, baby. Yes, baby. Mancha cui chori maita. Mírame. Ahora soy más fuerte. Mírame, ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza. Y estamos conectados con Espacio Estate. Y no volveré a caerme, conozco tus mañas. Yo sé que me extrañas. Y a otra con tus bonitas palabras, conmigo no alcanzas. Tú ya no puedes convencerme. Un caldo saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Spazio Estate Viaggi e di Radio Onda d'Urto. Decima e ultima puntata di questo format estivo, caldo e umido, come questa estate, che sta giungendo al termine. Fortunatamente, tutti gli episodi di Spazio Estate sono disponibili sul sito di Radio Onda d'Urto e su mixcloud.com/donpairs. In questo modo potrete, se lo vorrete, riascoltare tutte le puntate di questo programma, firmato Don Pierce, per scaldarvi anche durante l'autunno e l'inverno che stanno per arrivare, risparmiando così sul costo delle bollette. Questa puntata è stata registrata negli studi di Rududu a Gutru, Vallonia, Belgio. Nei prossimi 90 minuti vi proporremo l'ultima parte del racconto di un lungo viaggio in bici in Sud America, un'intervista ad un'organizzazione che svolge attività affini alle tematiche trattate su queste frequenze e infine la rubrica Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina, a cura di Mirko. Yeah. Prima di presentarvi il sommario di questa puntata, ascoltiamo gli ultimi messaggi ricevuti all'indirizzo Facebook e Instagram donpears.it. Ciao Giacomo, aspetta un attimo. Una cosa ti volevo chiedere, parlando di robe serie. Ma te, prima di partire per il viaggio, avevi già in mente di fare queste interviste? Perché, diciamo, dalle puntate che hai fatto non si capisce. Cioè, nel senso, è molto interessante il progetto che hai fatto, che hai unito sport e cultura. Però ce l'avevi già in mente prima di partire o è stata una cosa strada facendo? E anche il discorso del programma? Avevi già in mente tutta questa roba? Nel senso, noi di gente ne abbiamo ospitata tantissima, di viaggiatori in bici. In linea di massima, ognuno ha i suoi motivi perché fa i viaggi. Però che è un io cultura e sport in questa maniera qua non ne ho conosciuti molti, barra se sei l'unico. Cioè, quando te che voglia di rispondermi, che te che un minuto senza problemi. Ciao, ciao. Provo a darti una risposta concisa ma esaustiva. Ho pensato, come dicevo nella prima puntata, al viaggio in bici per più di 2 anni e me lo sono organizzato. Poi mi sono detto, sono comunque un attivista, piace la radio, collaboro già con Radio Onda d'Urto da un bel po' di tempo, perché non allegare al viaggio un progetto anche culturale? E poi mi sono anche detto, poi, visto che tutti mi chiederanno del mio viaggio e non ho abbastanza corde vocali per riraccontarlo a tutti e a tutte le persone che me lo chiederanno, faccio un programma di radio. Poi non volevo parlare di me in realtà, perché volevo dare più una visione di cos'è un viaggio in bici. E poi ho parlato in parte anche di me, di quello che penso, però era soprattutto per dare agli ascoltatori e alle ascoltatrici una voglia di usare la bici, che è il mezzo del passato, del presente e del futuro. Ciò quindi ha legato le interviste che pensavo potessero interessare al pubblico della radio. Io ho raccolto queste interviste. Prima di partire, in realtà, avevo accennato a un amico che lavora in redazione da Radio Onda d'Urto che forse avrei fatto qualcosa, ma io l'ho buttata lì e lui non ci credeva neanche, in realtà. E in 3 mesi, poi pedalando, ho raccolto in realtà una 15 di interviste, poi ne ho selezionate 10 perché volevo fare un formato radiofonico di 10 episodi, come era stato la prima serie di Spazio Estate. E poi ho cercato qualcuno che mi potesse aiutare a fare tutto questo lavoro. È per questo che, parlando con il mio amico Mirko, ci siamo accordati per fare Spazio Estate Viaggi insieme. E così che poi Mirko mi ha anche proposto anche di aggiungere una rubrica culturale. In quel momento, tra l'altro, io non volevo più fare Spazio Estate, volevo continuare il viaggio in bici, e invece Mirko mi ha convinto a fare Spazio Estate. E così ho cercato di mettere insieme progetto sportivo a progetto di attivismo culturale, che è Don Pears. Quindi in questo modo sono riuscito a mettere insieme questo programma, che spero vi sia piaciuto. E grazie per i vostri messaggi e potete continuare a scriverci, almeno fino alla prossima serie di Spazio Estate, su Facebook e Instagram donpears.it, dove troverete inoltre i video, le foto e gli highlights del viaggio in bici. Passiamo ora al sommario di questa ultima puntata di Spazio Estate Viaggi. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo. Nella prima parte, le conclusioni del viaggio in bici di Giacomo, che arriverà alla destinazione finale del suo viaggio in bici, in realtà senza saperlo, poiché non ha ancora deciso di iniziare a scrivere, registrare e diffondere questo programma radio e quindi di interrompere il viaggio in bici. Da Cusco, dove l'abbiamo lasciato nella scorsa puntata, Giacomo arriverà fino a Lima. Dopo quasi 2 mesi di pedalate ad oltre 3700 metri sul livello del mare, la bicicletta ci farà sognare durante gli ultimi 1100 km, percorsi in 10 giorni e che porteranno Giacomo fino alle spiagge dell'Oceano Pacifico. Nella seconda parte di Spazio Estate Viaggi ascolteremo l'intervista a José Carlos Llerena Robles, insegnante ed educatore peruviano, membro della Junta, un'organizzazione sociale e politica popolare che fa parte di Alba Movimiento. Lo abbiamo incontrato a Cusco. Ci racconterà del lavoro dell'organizzazione di cui fa parte, nata in un contesto di dispersione della militanza e che si è riunita intorno ad una piattaforma di lotta contro la dittatura fujimorista. Si esploreranno temi quali la sovranità, la giustizia sociale, la redistribuzione della ricchezza, l'antiimperialismo e l'internazionalismo, analizzato ovviamente da una prospettiva latinoamericana. Infine, la rubrica Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina. In questo ultimo episodio Mirko ci parlerà di Jaime Sáenz, scrittore, poeta, romanziere, saggista, drammaturgo, disegnatore e docente boliviano. Nato e vissuto a La Paz, scenario permanente della sua vita e della sua opera, è riconosciuto come uno degli autori più importanti della letteratura boliviana. La sua vita e la sua opera hanno influenzato profondamente lo spazio culturale boliviano del XX secolo. Ancora qualche istante di musica, poi la prima parte dell'ultima puntata di Spazio Estate Viaggi. Esta vez junto a la bichota, Karol G, la bebé Suki, con este servidor Maldi. Sin Maldi no hay perreo. The music for the company. Spazio estate. Spazio estate. E spazio estate. Spazio estate. Nell'ultima puntata di Spazio Estate Viaggi vi ho raccontato delle meravigliose perle della natura boliviana, a nord di La Paz. Avevo infatti deciso di continuare il mio viaggio in direzione Perù, passando, tra l'altro, dal lago Titicaca, uno dei laghi navigabili più grandi e più alti del mondo, ad oltre 3800 metri di altezza. Vi ho raccontato del paro, lo sciopero caratterizzato dai blocchi stradali che ho incontrato qualche chilometro dopo aver attraversato la frontiera tra Bolivia e Perù. Ero infine arrivato a Cusco, antica capitale del paese andino e culla della cultura inca. Nella scorsa puntata vi ho anche fatto sentire un pezzo di una delle varie interviste radiofoniche che mi sono state richieste durante il viaggio, 2 solo nella città di Cusco. Vi ho raccontato e continuerò a raccontarvi della calorosa ospitalità peruviana, dei miei nuovi amici Amilcar e Francesca, nonché della loro splendida famiglia. Infine vi ho fatto ascoltare la prima delle due interviste che ho registrato in questa città. L'ultima intervista del viaggio e anche di questo format radiofonico la sentirete tra poco. Il mio racconto di oggi riprende da Cusco, città dalla quale ripartirò per arrivare a Lima, tappa finale del mio viaggio in bici. Sono Giacomo, ciclo viaggiatore, un tempo inesperto. Sono partito in bicicletta da Buenos Aires l'8 febbraio e ho pedalato fino a Lima, dove sono arrivato il 5 maggio. Dopo 5.000 chilometri, di cui 3.500 in alta quota, posso ormai definirmi ciclo viaggiatore sperimentato. Esto es un fandango, pero no de lengua, sino es el fandango que te quede llevando. ¿De oreja? De caballero. Fandango es de brazo. Ese pez así. Es un fandango de brazo. Mio ultimo giorno passato nella città di Cusco. Dopo che il mio nuovo amico Amilcar mi ha portato di sua iniziativa in ben due radio a raccontare la mia esperienza tra le 6 e le 7 della mattina del 25 aprile, saluto lui, la moglie Francesca e il resto della famiglia, la cui genuina ospitalità mi ha decisamente sorpreso. Mi rimetto a pedalare. Avevo l'impressione che i peruviani avessero un temperamento alquanto freddo, ed effettivamente, al primo approccio, non è facile entrare nei loro pensieri. Poi però ho capito che, una volta rassicurati sulle mie buone intenzioni, ti aprono tutte le porte, quelle di casa, quelle della loro auto, quelle di una radio. Non mi piacciono le generalizzazioni, però viaggiando lentamente tra Argentina, Bolivia e Perù, mi sono almeno fatto un'idea sul carattere dei popoli che abitano queste terre. In queste 10 puntate ho voluto raccontare delle storie, senza giudicare e senza la pretesa di voler descrivere tutto con esattezza, cercando piuttosto di fare in modo di non scadere nel banale o negli stereotipi. Cusco si trova appena a 3.400 metri sul livello del mare e osservando la mappa, pur senza avere un altimetro, capisco che dovrò salire ancora prima di poter riscendere verso Lima ai bordi dell'Oceano Pacifico. In realtà, come spesso è accaduto durante questo viaggio, esagero con il mio ottimismo. Infatti la strada si rivelerà molto più dura di quello che immaginavo. L'itinerario che ho scelto per arrivare a Lima, infatti, passa inizialmente per una valle meravigliosa, dominata da un fiume e circondata da alcune montagne. Il problema è che da 3.400 metri scendo, in un paio di giorni, fino a 1.800. Successivamente la strada risale, attraversando piccole località montane, fino a 4.900 metri. Passo dal distretto di Cusco a quello di Pampamarca. Poi, dalla cittadina di Puquio, inizia una lunghissima discesa che attraversa il deserto di Nazca e la cittadina di Ica, giungendo poi finalmente, a livello del mare. Sorprendo ancora una volta me stesso, poiché i continui, ripidi e faticosi dislivelli non mi preoccupano più. Mi sento fisicamente più in forma che mai. Certo, la stanchezza di quasi 3 mesi in viaggio, pedalando praticamente tutti i giorni, si sta accumulando. Tuttavia ho i polpacci rigidi come l'acciaio, respiro a pieni polmoni, oltre ad essere sempre più eccitato per aver avuto l'inaspettata capacità di arrivare fino a qui. Pedalando, sudo sempre come se mi trovassi alle 3 del pomeriggio nel centro di Brescia a Ferragosto, anche quando mi trovo ad oltre 4.000 metri. La mia mente, ugualmente allenatissima a sopportare le enormi fatiche di questo viaggio, mi sta aiutando ad arrivare alla tappa finale del mio viaggio. Succede poi che di colpo è già il 26 aprile, il giorno del mio compleanno. Sono solo con la mia bici. Quella mattina mi sveglio in una modestissima locanda del paesino di Lima Tambo. Dopo un paio di telefonate da parte della mia famiglia e di qualche amica che mi fa gli auguri, mi rimetto a pedalare. Sono felice così. Non mi importa di fare una festa consumando bollicine alcoliche. E questo è molto strano. Ho pensato per anni che l'alcol fosse un ingrediente essenziale per celebrare il compleanno, così come altri avvenimenti importanti della vita, naturalmente insieme ad amici e ad amiche. Oggi però, il 26 aprile del 2022, non me ne frega niente. Non tocco alcolici da oltre 2 mesi e non ho intenzione di toccarne almeno fino alla fine di questo viaggio. Festeggio quindi solo con la mia bicicletta, percorrendo 109 km fino alla piccola cittadina di Abancay. È strano, ma proprio oggi mi capita di forare per la prima volta. Non è grave, anche se è già quasi sera, quindi appena riparata la camera d'aria è buio. Mi mancano però ancora una 30ina di chilometri per arrivare. La mia bici ha dei buoni fanali, ma le strade peruviane sono totalmente buie e viaggiare a quest'ora non è il massimo della sicurezza. Inoltre, quando il sole se ne va, le temperature scendono bruscamente. Mi metto una felpina e giungo pazientemente a destinazione. L'indomani è il 27 aprile. Oggi sarebbe stato il compleanno del mio primo grande amico, Roberto, che avevo conosciuto quando avevo 2 anni e che un brutto scherzo della vita, una lunga malattia, ci ha portato via prima del suo 30esimo compleanno. Penso intensamente a lui tutto il giorno, piango, rido tantissimo. Poi, sempre verso sera, bizzarramente, buco una seconda volta. Che strano, mi dico. Non ho mai forato durante quasi 3 mesi di viaggio e ora, in 2 giorni, 2 buchi in 2 punti diversi della camera d'aria. Non credo in nessun dio e non sono superstizioso, però bucare il giorno del mio compleanno e il giorno del compleanno di quello che fu per anni il mio migliore amico è proprio strano. Sta di fatto che il 26 e il 27 aprile di questo 2022 me li ricorderò a lungo. Questo viaggio continua a sorprendermi, a farmi godere come un matto, ad obbligarmi a riflettere su questa meravigliosa vita, con tutti i suoi difetti, dolori e imprevisti. Prima di raggiungere la cittadina di Puquio, dopo essere salito su un meraviglioso altipiano a quasi 5.000 metri di altitudine, iniziano finalmente le tanto attese discese. Alcune sono lunghe anche 70 km. Sono molto ripide, piene di tornanti e si infilano in un paesaggio sempre più desertico, privo di vegetazione, polveroso, ma comunque estremamente affascinante. Non è facile guidare in discesa per così tanto tempo, però è senz'altro meno faticoso e veloce che pedalare in salita. Non fa molto caldo, durante il giorno sudo un po', ma la temperatura si aggira intorno ai 25 gradi, praticamente senza umidità. Non piove mai. È un clima secco molto piacevole, almeno in questa stagione. Senza averlo programmato, mi fermo per caso al lato di un'alta torretta in mezzo al deserto, nei pressi della città di Nazca, per fare una pausa. Alla base della torretta leggo dei cartelli che descrivono le linee di Nazca, di cui non avevo mai sentito parlare. Salgo quindi sulla torre, alta una ventina di metri, ad osservare questi giganteschi disegni tracciati sul terreno e visibili solo dall'alto. Mi spiegheranno poi che oltre 13.000 linee compongono circa 800 enormi disegni. Alcuni ritraggono gli animali presenti nella regione, tra cui le balene, i pappagalli, i colibrì o i condor. Certi disegni sono così grandi da non poterli vedere chiaramente a 20 metri di altezza. Per esempio, c'è un ragno lungo circa 45 metri e una lucertola lunga più di 180 metri. Pare che questi disegni siano stati tracciati durante la civiltà Nazca, che abitava la regione oltre 2000 anni fa. Tecnicamente, le linee di Nazca sono perfette, ma nonostante le molte interpretazioni degli studiosi, non c'è unanimità che spieghi il perché i popoli dell'epoca si siano sbattuti così tanto per fare dei disegni. Lo spettacolo è straordinario. Mi viene da pensare come mai gli esseri umani siano in grado di produrre tanta bellezza e magnificenza, così come siano ugualmente capaci di distruggere, violentare popoli e terre, come, ad esempio, fecero gli spagnoli in questo continente, qualche secolo fa. Non è una questione di appartenenza, non è importante classificare i colonialismi in base alla loro violenza o crudeltà, anche perché in Europa dai colonialismi ci abbiamo guadagnato tutti. Non penso poi che gli spagnoli siano stati peggiori o migliori degli italiani nel Corno d'Africa o dei belgi nel Congo. Il punto è che l'essere umano è potente, ma la sua intelligenza dovrebbe essere totalmente integrata con la natura e di conseguenza puntare a creare, non a distruggere, a prendersi cura dei popoli più deboli invece di schiavizzarli. Solo così la civiltà umana potrebbe salvarsi anche oggi dall'estinzione, che invece si sta provocando con la violenza esercitata verso altri popoli e, in generale, verso la natura tutta. Sono così impregnato di pensieri che mi accorgo solo a fine giornata di quanto sto pedalando. Vado sempre più forte. Durante gli ultimi 5 giorni del mio viaggio percorro infatti il maggior numero di chilometri, ben 725. Approfitto della complicità delle discese, ma soprattutto sono praticamente a livello del mare. Dopo oltre 2 mesi a circa 4.000 metri, non sento più quella specie di pesantissima armatura di piombo che ti fa sentire l'altitudine. Ora sono leggero come una piuma, allenatissimo. I muscoli cantano, la mente è impazzita di gioia, poiché ha capito che tra qualche chilometro arriverò a Lima. È così che infrango il mio record personale di tutti i tempi con la bicicletta. Durante la tappa Ica Cerro Azul pedalo per 171 km in poco più di 10 ore. Arrivato a Cerro Azul, vedo l'Oceano Pacifico per la prima volta nella mia vita. L'emozione è grande e decido di festeggiare prendendomi un giorno di pausa in un alberghetto di fronte alla spiaggia. Mangio ceviche in un ristorante popolare. È un piatto tipico peruviano, a base di pesce crudo marinato nel limone e servito con abbondante cipolla. Squisito. Scoprirò poi che viene anche proposto, rivisitato, in Italia. è il lato bello della globalizzazione. Approfitto del giorno libero per fare il bilancio di questi 3 mesi di viaggio, pur senza aver ancora deciso di fermarmi. 342 chilometri, l'indomani, sarò a Lima. In Perù ho pedalato per 1630 chilometri, divisi in 16 tappe. Significa poco più di 100 chilometri al giorno. Sono decisamente più forte di quando sono partito. In Argentina, infatti, primo paese del mio viaggio, avevo percorso in media 76 km a tappa, tra l'altro quasi interamente in pianura. Nelle durissime montagne della Bolivia viaggiavo già ad una media di 80 km a tappa. Penso ancora una volta a quanto meravigliosa sia la bicicletta. Mi ha permesso di mettere a prova me stesso, di migliorare il mio fisico, di conoscerlo meglio e anche di stimolare la mia mente. Con lei non avevo bisogno di nulla, mi ha fatto sempre sentire bene, senza chiedermi di sopportare la fatica con le sostanze, quali caffè, alcol, tabacco, farmaci, come spesso mi richiede il lavoro. Grazie a lei, il mio corpo ha prodotto quintali di ormoni della felicità, quali la dopamina, la serotonina, l'ossitocina, l'adrenalina e anche l'endorfina. Non lo so ancora, ma ho capito poi che questi ormoni mi accompagneranno per lungo tempo, che il ritorno alla mia routine sarà estremamente facilitato, entusiasta, felice. Con questo viaggio ho realizzato ed esercitato pienamente il mio diritto ad essere felice. Viva la vita e viva la bici. Arrivo a Lima il 5 maggio. Già a partire dalla periferia della capitale peruviana, che conta quasi 10 milioni di abitanti, il traffico mi travolge. È di gran lunga la città più pericolosa per pedalare in bici nella quale mi sia trovato durante questo viaggio. Non esistono regole. Il codice della strada è lettera morta. La circolazione stradale totalmente anarchica. Centinaia di minibus mi superano a pochi centimetri di distanza, quando, per rispettare un ciclista, bisognerebbe superarlo ad almeno 2 metri. Mi ritrovo su una delle tangenziali più trafficate della città. Ho paura. Respiro la polvere sollevata dai mezzi di trasporto, il fumo nero residuo del gasolio bruciato da veicoli che contano centinaia di migliaia di chilometri e numerosissimi anni di vita. È un incubo e temo seriamente per la mia incolumità. Fortunatamente, dopo qualche chilometro di delirio, mi si avvicina un ciclista sconosciuto, un giovane limegno che sta andando a lavorare. Mi consiglia di seguirlo per strade secondarie. Lui le conosce, io no, e non posso permettermi di guardare la mappa sul cellulare e occuparmi contemporaneamente della guida in questa congestione di motori impazziti. Mi fido ciecamente del giovane ciclista. Ha una bella faccia. E ormai ho imparato a distinguere i malintenzionati e, anche se mi potrei sempre sbagliare, preferisco seguire lui, che va nella mia stessa direzione, che rimanere a pedalare in questa temibile tangenziale. Arrivo nel mega distretto popolare di Santa Anita. Mi ritrovo qui perché, come vi avevo raccontato in una delle prime puntate, nel nord dell'Argentina, avevo conosciuto per 5 minuti Robert. Mi disse che se fossi arrivato a Lima potevo andare a casa della sua famiglia, anche in sua assenza, visto che stava viaggiando in direzione Terra del Fuoco e sicuramente non sarebbe rientrato in Perù prima di un anno. Ho scritto a Robert qualche giorno prima di arrivare a Lima e mi ha passato il numero della madre, che mi sta aspettando a casa. Arrivo quindi nel distretto di Santa Anita, poi in località Andahuaylas. È chiaro che mi trovo in un quartiere abbastanza povero, periferico, lontano dal mare. dopo essere uscito dalla tangenziale, mi sento comunque al sicuro, in alcun modo minacciato da piccoli vicoli poco illuminati della zona. Sono il campanello della famiglia Burgos e mi apre, sorridente, la madre di Robert, che mi ha già preparato un pasto caldo, un letto in una cameretta tutta per me, e mi invita ad andarmi a fare una doccia, naturalmente fredda, ma una delle tante che ho fatto negli ultimi 3 mesi di viaggio. Non so quanto mi fermerò, ma dopo un paio di giorni, a casa della famiglia Burgos, con la madre e i 2 fratelli di Robert, faccio comunque presente che posso anche trovarmi un alloggio a pagamento. Ho speso pochissimo per dormire negli ultimi 3 mesi, e anche a Lima, nei quartieri popolari, un alloggio economico costa appena 3 o 4 euro a notte. La signora Burgos però mi dice che posso fermarmi quanto voglio. Mi fa capire che il check-out a casa sua lo decido io. Mi fa solo presente che devo occuparmi della mia spesa e dei miei alimenti. Succede poi che pranzo con la signora Burgos tutti i giorni. A cena lei preferisce rimanere leggera e io, che devo recuperare milioni di calorie perdute in viaggio, la sera vado a sfondarmi di tutto il cibo che trovo nei banchetti del vicino mercato. Sempre le stesse cose, però economiche e gustose. Occasionalmente la signora Burgos mi permette di cucinare una pasta per tutta la famiglia. Sento che mi vuole bene quasi come un figlio. Ancora una volta mi commuovo per la calorosa, inaspettata ospitalità peruviana. La signora ci tiene a farmi provare le specialità della cucina di Lima e del Perù. Ed è così che, non sempre entusiasta, provo ogni tipo di frattaglia. Cuore, polmoni, intestini, diaframma, cucinati in tutti i modi. Alla brace, in brodo, nell'insalata. E, naturalmente, il pezzo forte della cucina peruviana, il ceviche. Fondamentalmente, le 3 settimane che passerò a Lima mi serviranno per riposarmi, quindi passo molto, molto tempo a letto, anche di giorno. Colgo però anche l'occasione per visitare la città. Non ci penso minimamente, dati il traffico e la stanchezza, di usare la bici. Mi affido quindi a bus e minibus che si muovono impazziti per le vie della città. Da Andahuaylas, Santa Anita, per arrivare in centro ci vuole all'incirca 1 ora. Offre poche piazze degne di nota. Ospita pochi edifici storici in buono stato, pochi musei, praticamente nessuna libreria, pochissimi negozi che offrono merci di qualità, a parte qualche affollatissimo e moderno centro commerciale. Qualche pomeriggio lo passo invece nei pochi e piccoli distretti ricchi della città, Miraflores e Barranco. Si trovano in riva al mare. Alti palazzi e lussuosi appartamenti vista oceano contrastano con le modestissime abitazioni di tutti gli altri quartieri della città. Le disuguaglianze in questo paese, che ha scelto da tempo di volersi sviluppare attraverso il libero mercato, sono spaventose. Cosa si è meritata la signora Burgos, che tra l'altro vive decisamente meglio dei suoi vicini di casa, e che ha lavorato tutta la vita 10 ore al giorno per ritrovarsi in un quartiere senza servizi, con strade fatiscenti, polverosi? E cosa mai avranno fatto questi ricchi abitanti di Miraflores e Barranco per potersi permettere auto relativamente lussuose, appartamenti vista mare e la possibilità di frequentare le migliori enoteche, locali e ristoranti di tutto il paese? Sono sconvolto. Penso e studio da anni che il capitalismo ha dimostrato di non essere in grado di soddisfare il benessere della collettività, ma che si tratta invece di un sistema economico ingiusto, parassita, che sfrutta i più deboli per arricchire clamorosamente chi ha un briciolo di potere, una posizione, un titolo in più e soprattutto una coscienza di merda. Riprendo il bus per Santa Anita, annerito dai miei pensieri, e ci metto quasi 2 ore e mezza per ritornare nella mia amata cameretta nel quartiere di Andahuaylas. Sono felice di ritornare nella mia nuova famiglia, Casa Burgos. Anche a distanza di mesi, la nostra amicizia rimarrà forte, come dimostra tra l'altro questo messaggio che ho ricevuto molti mesi dopo il mio rientro in Europa. Hola Giacomo, me da tanta allegria escucharte. Voy a escuchar la radio y después te cuento, pues. Y para nosotros también ha sido una gran compañía tu presencia, ¿no? Entonces también igual yo te estoy agradecida por toda tu compañía también, Giacomo. Y pues bueno, en un futuro, como lo dices, si estás por aquí, me visitas, ¿sí? Cuídate mucho, igual un abrazote para ti también, Giacomo. Y gracias por todo. Voy a escuchar tu radio y ya después te cuento, pues. Cuídate mucho, un abrazote. Dopo una settimana di lunghe dormite e qualche giretto per la città, inizio seriamente a pensare al mio prossimo futuro. Sento che il desiderio di continuare il viaggio è ben presente. Ho diversi amici in Colombia e studio un itinerario che mi permetterebbe di arrivarci in poco meno di 3 mesi passando per l'Ecuador. Allo stesso tempo inizio anche a sentire la lontananza della mia famiglia, di amici e amiche, dei compagni e delle compagne in Europa. Partendo ora, a metà maggio, in bicicletta in direzione Bogotà, arriverei circa a metà agosto. In questo modo mi perderei tra l'altro Festa Radio, che ho già mancato lo scorso anno a causa del troppo lavoro. Ho anche ormai una 15 di interviste registrate durante gli scorsi 3 mesi e mi piacerebbe diffonderle in qualche modo. Contatto allora la redazione e propongo il mio progetto radiofonico, ovvero questo programma. Va a finire che la redazione si dimostra interessata alla mia proposta di un format per l'estate. E così cambio subito idea. Mi sento un pazzo a voler tornare in Europa, impantanata in una guerra per procura, con il costo della vita che sta aumentando a dismisura, con la sua fretta di fare tutto subito. Temo altresì di ritrovarmi ancora una volta a lavorare dietro il bancone di un bar, nella cucina di un ristorante o in un noioso ufficio climatizzato. Non voglio più iniziare il mio programma per Radio Onda d'Urto. Sento che non ho placato sufficientemente il mio desiderio di sentirmi libero, senza un affitto da pagare, ma con una tenda, senza necessità di spendere decine di euro in aperitivi, talvolta con persone che mi interessano relativamente. Da mesi mi basta un bicchiere d'acqua e un bel tramonto per godere della parte finale della mia giornata. Fortunatamente ho un amico di infanzia, Mirko, che vive in Spagna. Lo vedo raramente oramai, ma ci teniamo aggiornati costantemente sulla nostra vita. Lo avevo già avvisato della possibilità di scrivere un programma radio a 4 mani e ormai si era convinto a preparare la rubrica letteraria che sentite regolarmente su Spazio Estate. Mi convince a non desistere e decidiamo di iniziare questo programma verso giugno. I tempi sono molto stretti. Non voglio rimanere nella caotica, polverosa, enorme capitale peruviana. Decido allora che prenderò un aereo per la Colombia, dato che ho degli ottimi contatti con vecchi amici che vivono lì e mi possono ospitare. Inoltre conosco un paio di studi radiofonici che potrebbero anche loro ospitarmi per registrare il programma. Così, dopo 3 settimane a Santa Anita, lascio Lima. Il mio racconto di viaggio, fatto di 3 paesi, 3 mesi, 5.000 chilometri, pedalati in gran parte sulla cordigliera andina, è registrato e trasmesso in 10 episodi su queste frequenze, finisce qui. Tra pochi istanti di musica, la 10ª intervista di questa ultima puntata della 2ª stagione di Spazio Estate Viaggi. radio onda d'urto, radio onda d'urto. Siamo qui con José Carlos Llerena Robles, membro della Junta, organizzazione sociale e politica popolare, che fa parte di ALBA Movimento in Perù. Ti chiedo inizialmente di presentarti brevemente, per favore. Allora, primero te pido che si presente brevemente, per favore. Sì, sono José Carlos. Ok, sono José Carlos, sono peruviano e insegnante, educatore. Bene, ti domando subito quando è nata la Junta, da chi è stata fondata, per quali esigenze specifiche e quali sono le principali esperienze e pratiche collettive, professionali e culturali che la conformano. La Junta nasce nel 2013, luego de un contexto de dispersión de militancias que... La Junta nasce nel 2013 in un contesto di dispersione della militanza che poi si è riunita intorno a una piattaforma di lotta contro la dittatura fujimorista. Queste militanze individuano un progetto, un tentativo di progetto, uno spazio di unità, con la candidatura di Ollanta Humala. Varie persone, varie esperienze, la lotta universitaria, la lotta di classe, la lotta sociale, trovano un incontro nel nazionalismo di Ollanta Humala, seguendo quella che viene chiamata onda progressista dell'America Latina e, prima del viraggio di Humala verso la politica liberale, diversi tipi di militanza iniziano ad organizzarsi. Non nasce solamente la Junta, ma anche altre organizzazioni che, come la Junta, vogliono rispondere a questo contesto storico. La Junta è un'organizzazione programmatica, nel senso che si fonda su un programma, prima che su un vincolo necessariamente strettamente ideologico. Un programma di 5 punti: sovranità, giustizia sociale, ridistribuzione della ricchezza, internazionalismo in prospettiva latinoamericana, antiimperialismo e lotta contro il patriarcato. Nasce a Lima, però ci sono nuclei a Huancayo e Huancavelica, a Puno e in altre regioni, che hanno un'autonomia per poter far fronte agli scenari politici e reali di ognuna delle regioni, perché come puoi vedere la realpolitik a Cuzco è molto differente da quella di Lima, totalmente, e ancora di più a Oriente, nella zona dell'Amazzonia. In ogni caso, ciò che ci unisce è il programma. Tra le attività principali c'è la formazione politica. Creiamo vari spazi di formazione, però con la stessa forza e intenzionalità programmatica politica, che è quello che abbiamo chiamato la Scuola Nazionale di Formazione Politica, che in questo momento offre riunioni di 4 o 5 giorni con più di 100 giovani in uno spazio per acquisire tra tutte e tutti diversi strumenti, per comprendere il contesto storico, il senso del momento storico, come direbbe Fidel Castro, e cosa fare, seguendo le orme di Antonio Gramsci, organizzarci, istruirci e ancora mobilizzarci. Storico, come diceva Fidel Castro, e che fare, un po' seguendo il legato di Antonio Gramsci, di organizzarnos, istruirnos e anche mobilizzarnos. Gli spazi di formazione... Gli spazi di formazione servono per questo, tenendo sempre conto che lo spazio di formazione è accessorio e strumentale alla lotta. La cosa più importante è la lotta. Non abbiamo una prospettiva di formazione politica accademica, scolastica, ma attiva, che deve avere a che fare con la lotta. E proprio per questo molti degli insegnanti che stanno lì sono dirigenti sociali, compagni con grande esperienza di lotta, come Héctor Bejara, che ha una grande esperienza. È il nostro maestro, come gli diciamo con grande affetto. E questa questione formativa la colleghiamo con la questione internazionalista che ci interessa, visto che facciamo parte dell'articolazione di movimenti che agglutina più di 200 movimenti sociali intorno a un progetto politico continentale, al cui interno esiste anche una rete di formazione, guidata dalla Scuola Nazionale Florestan Fernandez, il Movimento Sin Terra in Brasile, il Centro Memoriale Martin Luther King a Cuba e la Scuola José Carlos Mariátegui in Argentina, la Scuola Robinsoniana in Venezuela. Proprio per l'articolazione continentale ci aiuta a fare questo di un intercambio di apprendimento per migliorare la formazione politica, che consideriamo fondamentale, perché in Perù e in America Latina ha avuto un grande successo negli anni 90 il discorso di Francis Fukuyama sulla fine della storia, che non ci sarebbe più niente per cui lottare, che la lotta di classe si sarebbe esaurita, e il XXI secolo ci sta dimostrando invece tutto il contrario, perché la disputa è aperta e la lotta parte sempre da movimenti popolari dal basso. Il fin della storia, che non c'era nada más che imputarle alla vita, che la lucha de clases ya fue, y el siglo XXI nos demuestra todo lo contrario, que la disputa está abierta y que siempre son a partir de los movimientos populares y desde abajo. Los grandes cambios de gobierno. I grandi cambiamenti del governo che abbiamo visto, con i suoi limiti e le sue contraddizioni, non sono venuti dall'esercizio di una democrazia liberale, ma dal calore del popolo agitato e affamato. Il caracazzo che ha portato al trionfo di Chavez, la guerra dell'acqua e del gas che ha portato al trionfo di Evo Morales, e ancora, con le sue limitazioni, il kirchnerismo con l'Argentinazzo, e tutta un'altra serie di fatti analoghi. Però, insomma, si sente che la disputa è ben aperta e che non c'è stata nessuna fine della storia. E la formazione politica è un punto essenziale, anche per affrontare le storture e le sfide della postmodernità, come l'amnesia storica, in un paese come il Perù, che vive il suo bicentenario ed è difficile plasmare in un progetto politico tutto l'anticolonialismo che abbiamo accumulato. E anche capire cosa è successo in quel conflitto così recente, circa 30 anni. No, questa... E dall'altra parte la formazione politica si dirige contro l'asfissia ideologica. Questi sono i due principali punti. Siamo un'organizzazione politica, non ci consideriamo un'organizzazione sociale. Perché crediamo che la sinistra, da un punto di vista politico e ideologico in Perù, ha perso il controllo di ciò che chiameremmo sinistra sociale e che sarebbe la sinistra che ha votato per Pedro Castillo, soprattutto. Perché un movimento sociale si organizza in particolare per disputare la materialità del quotidiano e nel periodo successivo al conflitto la sinistra è stata relegata, o meglio, non ha saputo prendere le redini in tutto questo. E per esempio nelle periferie di Lima, dove c'è molta fame, molta precarietà, dove prima c'era la sinistra, con l'arrivo del fujimorismo e la consolidazione del neoliberismo, sono entrate le chiese neopentecostali, che, come ho sempre detto, sono basicamente militanti. E direi che sono militanti che io ammiro molto, perché ci mettono un grande impegno e sono lì, presenti. Non si fanno distrarre da feste, partecipano alle riunioni, sono molto disciplinati, si concentrano sulla quotidianità, risolvono la materialità e la quotidianità. E lì io credo che ci sia un bilancio di cui la sinistra dovrebbe appropriarsi intorno alla lotta sociale. Oggi, nonostante la crisi politica, c'è per esempio Perù Libre, che è la più grande rappresentanza parlamentare in Perù. Però, al di là di questo, ci sono tutta una serie di partiti, ognuno con le sue etichette, di destra, di centrodestra, che alla fine sono favorevoli al capitale, all'industria estrattiva. Cambia il nome però, ma alla fine difendono gli stessi interessi. Per questo io credo sia importante questa distinzione tra organizzazione politica e organizzazione sociale. E la Junta nasce in questo contesto nazionale, in cui nascono anche altre iniziative, altri spazi, come Sembrar, il Foro Juvenil de Izquierda, e vari altri gruppi che rispondono al calore continentale. Molti gruppi di studenti viaggiavano qui, dall'Argentina, dal Venezuela, c'erano forti relazioni. Stiamo costruendo un nuovo tipo di internazionalismo, molto diverso da quell'internazionalismo un po' sindacale, con conferenze in un hotel e cose così. Molte di queste organizzazioni, di questi movimenti, vengono dall'Argentinazzo, dai blocchi stradali in Argentina, dalla presa delle terre in Brasile e in Colombia, dalla lotta in Venezuela, in Bolivia. Sono movimenti che cercano di creare un internazionalismo, forse sul modello di ciò che progettava il Che Guevara, con una prassi veramente rivoluzionaria, per costruire uno spazio che non sia semplicemente spazio di discorsi, ma anche di riflessioni e azioni strategiche. E attorno a questo calore che la Junta nasce. Una praxis rivoluzionaria de verdad, costruendo lo spazio che non sia un spazio semplicemente di discorso, sino anche de reflexión con miras de acción estratégica, ¿no? Entonces, ahí es en ese calor que la Junta se va se va inscribiendo. También con mucha, Oltre alla parte formativa, c'è anche una forte coscienza sulla disputa ideologica e comunicazionale. Così tra i movimenti si alza uno slogan. Ogni militante è un comunicatore. Cioè ogni militante deve avere almeno delle nozioni basiche di comunicazione. Anche perché non abbiamo le risorse per contattare giornalisti, editori, grafici, videomaker. Un esempio chiaro di questo è la Brigata de Salins, che sta a Haiti. Da molti anni aiutano i compagni haitiani nello sviluppo di progetti agroecologici per ottenere un minimo di sovranità alimentare, cosa molto importante vista la crisi complicata che riguarda Haiti. Ci sono compagni del Brasile, dell'Argentina, e sono stati loro, con dei cellulari e delle nozioni molto basiche di comunicazione popolare, a registrare i primi sollevamenti del 2018. Con l'aumento del cherosene, che era stata la miccia che ha aumentato il livello di mobilitazione e agitazione ad Haiti, da quell'anno e fino ad oggi. Anche oggi le strade sono molto mobilizzate e media ufficiali come Telesur, RTVE si sono rivolti a loro perché non hanno corrispondenti lì. Questo tipo di questioni sono fondamentali e sono piccoli passi importanti per capire qual è il contesto attuale di disputa politica. A livello nazionale, la Junta si relaziona con almeno due movimenti sociali molto importanti. Uno sono le ronde campesine, organizzazioni comunitarie che hanno una giurisdizione, ovvero rendono giustizia alla Costituzione del Perù. E questo viene direttamente dai popoli dei campi, da molti, molti anni. Loro fanno giustizia nel loro territorio e sono molto più apprezzati della giustizia istituzionale. Fanno un lavoro sociale molto forte a livello nazionale. Poi c'è il movimento Alfa e Omega, che è un movimento religioso. Considerano Gesù Cristo come il primo rivoluzionario della storia e fanno un lavoro di base soprattutto nei posti più poveri, come la periferia di Lima. Hanno una radio comunitaria e fanno un lavoro sociale molto forte. Però la Junta vuole essere soprattutto un'associazione politica giovanile, con questi punti programmatici. Poi è presente anche in altre questioni, come la disputa elettorale, perché abbiamo avuto vari compagni e compagni impegnati anche in varie competizioni elettorali. Però la parte fondamentale è soprattutto quella formativa, è l'articolazione continentale, perché siamo convinti che così come 200 anni fa il processo di liberazione del Perù non riguardi solo il Perù, ma anche la Bolivia, Cuba, di tutto il continente, per poter far funzionare questo progetto di emancipazione di cui si sta discutendo da 200 anni. No va a ser solamente el Perú, va a necesitar de Bolivia, de Cuba, de todo el continente para poder echar a andar ese proyecto emancipatorio del que se viene disputando hace más de 500 años. E quindi a tuo avviso quali sono le rivendicazioni più urgenti proprio a livello pratico in questo momento per il Perù e più in generale per l'America Latina? Ahorita tú lo has visto en los cortes de ruta, en los paros. Con la pandemia, la crisis económica se ha profundizado de una manera sin precedentes. Attualmente con la pandemia, la crisi economica si è aggravata come non mai. La vita, l'alimentazione, il lavoro, le persone che si sono trovate senza lavoro, l'incremento della povertà, la fame. Questo soprattutto a Lima, perché fuori c'è un'economia agropecuaria a cui fa sì che si possa esserci della povertà, però non si muore di fame. Invece nelle periferie di Lima non cresce niente e gran parte della popolazione è migrata dalle Ande, seguendo il meccanismo tipico del capitalismo, ossia dal campo si va alle città. Sono finiti lì e in questo contesto di crisi così profonda li porta a lottare per il cibo quotidianamente, cose che prima non erano costretti a fare. Queste sono le principali rivendicazioni e credo che siano riconoscibili nei blocchi delle strade, delle autostrade, negli scioperi. Ci sono anche diverse rivendicazioni sociali, conseguenti alla pandemia ovviamente, come il diritto alla salute. Il Perù è il paese con il più alto tasso di mortalità nel mondo per Covid. E poi il livello di intensificazione del neoliberismo che ha causato che certe persone hanno dovuto persino vendersi un rene per poter far sì che un parente potesse avere un letto in terapia intensiva, in una clinica. Visto che in Perù il libero mercato nella Costituzione, nelle farmacie che rispondono agli stessi poteri dell'industria mineraria, il paracetamolo che prima della pandemia costava un sol, la moneta peruviana, a seguito della pandemia è aumentato a 10 sol, per esempio. Quindi la rivendicazione sociale per la salute è stata qualcosa di forte, che non è venuto solo dalla gente, ma anche dai lavoratori e dalle lavoratrici del settore della salute, a cui lo Stato non ha dato niente, nessuna protezione, niente per affrontare la pandemia. Nel gruppo abbiamo compagni del Partito Comunista del Perù che hanno contatti molto forti con i sindacati lavoratori del settore sanitario. E ci sono un sacco di casi, io ne conosco personalmente qualcuno. Infermieri che si portavano un sacco di plastica da casa e lo usavano come camice. Erano costretti a prodursi da soli il proprio materiale di protezione, guanti e tutto il resto. Lo Stato sociale è collassato, così come in altri paesi della regione. Non si tratta di una cosa che interessa solo il Perù, ma anche il Brasile, dove il SUS, il Sistema Unico di Sanità, è molto forte, serio, è riconosciuto. Però in generale i sistemi di salute in paesi periferici e dipendenti e super neoliberali come paesi dell'America Latina affrontano questa stessa questione. Queste rivendicazioni possono arrivare a diversi obiettivi. Io credo che quello principale per un'eventuale assemblea costituente è quello che si sta costruendo in questo momento. Tutto questo di cui ho parlato, la precarietà lavorativa, la fame, la disoccupazione, la questione della casa, perché per esempio durante la pandemia era necessario avere acqua e nelle periferie di Lima non c'è acqua ed è più cara lì che nei quartieri ricchi, perché lì l'acqua la portano le autocisterne e così in periferia è molto più cara che per una casa in centro città. È assurdo, però è così. Allora, tutte queste questioni accrescono una fede in se stessi. Suppongo sia una cosa un po' isolata. Però questo mito, quest'utopia, è presente nell'Assemblea Costituente. Per esempio, si è visto anche negli ultimi due casi di progetti che hanno sfidato apertamente il neoliberismo all'inizio del XXI secolo e con tutte le loro contraddizioni e limiti continuano a esistere, sono in piedi, ossia il Venezuela e la Bolivia, che effettivamente hanno realizzato assemblee costituenti per i loro processi. Allora, io credo che sia l'assemblea costituente la bandiera, il sentimento che accoglie questo grido di protesta, di volontà di un cambio delle regole del gioco. È molto interessante e non riguarda solo il Perù, è un qualcosa che sta succedendo in questo momento anche alle Barbados, in varie isole del Caribe che hanno ottenuto la loro prima indipendenza formale e i processi costituenti si stanno sollevando. Anche in Guatemala la lotta campesina sta aprendo la costituente. In Cile stiamo vedendo già la costituente in cammino, con tutto ciò che è successo. A Panama la costituente sta a fianco degli operai del settore della costruzione civile. Quindi se c'è un fantasma che ricorda l'America Latina in questo momento è quello della costituente. Una cosa un po' folle, è come quel marxista argentino che dice sempre che Marx è come uno zombie, tutti gli anni lo uccidono, il marxismo è morto. Bene, la stessa cosa sta succedendo con la Costituente, perché per esempio qualche mese fa tanti dicevano che tutti si sono già dimenticati della Costituente e adesso invece, come hai visto, bloccano le strade per la Costituente. Ecco, è la stessa dinamica. Però credo che si debbano sempre tenere presenti le chiavi che abbiamo in ALB, che sono lotta, unità e progetto. Adesso c'è lotta, c'è molta lotta, però dispersa. Solo certi paesi hanno trovato qualche spazio di unità. Però l'ultima tappa è costruire un progetto, non solo un progetto di denuncia, ma un progetto propositivo. Stiamo vivendo una crisi di proposte alternative. C'è un certo determinismo, l'idea che tutti i politici sono uguali e che tutto va male, e le reti sociali aiutano a queste tendenze della postmodernità, un sacco di fake news. E tutto questo porta anche a un declino morale delle proposte. E in un certo modo, forse, guardando anche la storia, ci sarebbe bisogno di una scintilla, come quella che nel 1994 hanno provocato gli zapatisti, per fare un esempio. quando era vigente Fukuyama. Addirittura la stessa sinistra diceva che sì, che il marxismo già non c'era più lotta armata, c'era persino una certa vergogna per il passato. Ci si intrappolava in discorsi così e poi di colpo arriva un gruppo di matti in chiapas e scopriamo che si può ancora fare qualcosa. Certo, non riescono a cambiare tutta la struttura, però se teniamo in conto cosa ha significato nel 94 è molto forte. E Florestan Fernandez, che è un sociologo che segue la linea di Maria Tegui e che negli anni 90 scrive un articolo «Cosa farebbe adesso Maria Tegui?». Ed è un articolo di Florestan Fernandez, che è un intellettuale popolare, in cui si nota che il testo è pieno di rabbia per questo fatto che tutti i compagni dicevano «Bene, ecco, siamo arrivati fin qui, quel che si poteva fare si è fatto, il marxismo arriva fin qui e basta». Ecco, questo è il contesto degli anni 90, con tutto il tema della fine della storia. Quindi c'è il bisogno di questa scintilla. Però penso anche che non dobbiamo pensare alla rivoluzione solo in chiave straordinaria, ma fare la rivoluzione anche in chiave ordinaria, come succede con queste esplosioni di luci nei quartieri popolari che si sono organizzati contro il Covid, senza niente, nelle mense sociali che permettono di alimentare centinaia di persone con meno di un dollaro. Gente che risponde a un contesto diverso, a un altro senso della storia. È lì che si apre la disputa. Però è da intendersi in questa chiave, che salvaguardi tutto l'accumulato nella lotta di classe in un continente, la cui invasione ha inquadrato forse i principali fenomeni che attualmente continuano a essere vigenti e che però sono in crisi. Cioè il capitalismo, l'eurocentrismo, il modernismo, la modernità e il colonialismo. È questa più o meno la situazione. Più in concreto, con la Junta, cerchiamo di aiutare per quel che riguarda la parte formativa, il che implica una sfida, perché si tratta soprattutto di donne che non hanno tempo per sedersi a conversare, perché prima devono risolvere il problema della fame nei loro quartieri, poi devono risolvere i problemi domestici, e devono pensare anche ad altre cose. E allora, in che momento si può inserire questa formazione? Abbiamo quindi pensato a varie soluzioni, come mandare un WhatsApp quotidiano con le notizie, in modo che le signore possano ascoltarlo mentre cucinano, che è un po' il momento in cui possono rilassarsi, ed è uno spazio in cui vedono un senso molto importante, e che mi fa ricordare quando durante la rivoluzione cubana facevano formazione politica con degli audio in fabbrica. Credo che questa sia una sfida, per ciò che riguarda la formazione soprattutto. Come formare per organizzare, non solo formare per capire, ma anche per organizzare e mobilizzarci, un qualcosa che si era perso e che dobbiamo recuperare. La settimana santa c'è stato uno sciopero a Cangallo, che è stato l'epicentro dell'ostilità durante il governo di Castillo. E Cangallo era stata una cosa da pazzi. Sembrava impossibile negoziare. Qui a Cuzco è stato tutto molto più semplice, perché c'è una grande esperienza accumulata, un'organizzazione sociale, campesina, che risponde a un contesto diverso. A Lima c'è il tema dei lavoratori del settore della costruzione civile. Per questo il giorno che il paese si solleverà sarà una follia quella, perché si tratta di migliaia e migliaia di persone e come organizzare questa massa è una sfida. Anche da qui passa la formazione politica. Formare per coltivare, per organizzare e mobilizzare. Senza organizzare e mobilizzare, la formazione perde il suo carattere strumentale. Cómo organizar esa masa también está es un desafío, entonces por ahí también pasa la formación política, no solo formar para cultivarte y para saber, sino también sobre todo para organizar y movilizar, porque sin organización y movilización, al fin y al cabo, la formación pierde su carácter instrumental. Grazie, siamo giunti ormai quasi alla fine del tempo a nostra disposizione. Volevo chiederti se volevi aggiungere qualcos'altro per concludere questa intervista. Mira, già che sto parlando contigo, credo che ahorita nel contesto mondiale, soprattutto con tutto questo conflitto Russia-Ucraina, Me hace pensar mucho los escritos de Mariátegui quando fu Italia. Il contesto mondiale, soprattutto con qualche conflitto come quello tra Russia e Ucraina, mi fa pensare molto agli scritti di Mariátegui. Per esempio quando è stato in Italia. Perché Mariátegui qui, a livello continentale, è una guida del socialismo indoamericano. Quando viaggia in Italia comincia a politicizzarsi e si forma sempre di più all'ombra di Gramsci. Però è soprattutto vedendo quelli che sono stati gli inizi del fascismo che si stava espandendo in Europa, in Francia, che ha sviluppato alcune teorie. Credo che sia il fattore popolare in Perù e in America Latina. Queste sinistre più popolari, a volte incomprese dalle sinistre più progressiste, che rispondono a canoni paradossalmente più europei e non si rendono conto che è nel popolare che si trova il freno al fascismo. Questo contenimento a questa nuova fiammata fascista che può espandersi anche in America Latina, come si vede in Argentina con Milei, in Cile con Cast e anche in Brasile con Bolsonaro, può essere fermata solamente dalle classi popolari. Però anche qui ce n'è qualcuno, e ciò che sta a sinistra, vittima di questa amnesia storica e asfissia ideologica, non si rende conto che la sinistra popolare non è sufficientemente rivoluzionaria, si concentra di più su questioni negative. È quella che contiene un eventuale progetto neofascista, conservatore, che potrebbe arrivare al potere istituzionale in Perù e lì fare la muffa. È grazie a Perù Libre che queste correnti fasciste, che hanno molto denaro tra l'altro, molto potere economico, non hanno vinto. Io conosco persone di quartieri popolari che alla prima tornata hanno votato per il Bolsonaro peruviano e alla seconda hanno votato Pedro Castillo. Come si spiega questo? È una cosa abbastanza allucinante e credo che la congiuntura internazionale che interessa adesso tutto il mondo, anche qui, i prezzi dei combustibili, i fertilizzanti, dovrebbe motivarci a prestare attenzione a come si stanno riconfigurando i modi di cercare di salvare questo morto vivente che è il progetto neoliberale, che ha dimostrato di non servire a nulla e che in un contesto di crisi sono ultrafascisti. Quelli che dicono che la colpa è dei negri, degli indios, della povera gente, delle donne, sono ultrafascisti. Credo che questo contesto deve aiutarci a riflettere in Perù e nel continente, considerare l'importanza di una sinistra sociale e popolare, cioè una sinistra come la si concepiva in altri tempi. Un po' quel sentito comune popolare, quindi io credo che questo contesto anche deve aiutarci a riflettere in Perù e nel continentale la importanza di una sinistra sociale e popolare. Quizás antes que una izquierda como la concebíamos en otros tiempos. Es cierto y muy cierto que el hip hop es nuestra vida. También es muy cierto que sin él yo no tendría vida. Y vida es lo que me da. Avete ascoltato l'intervista a José Carlos Llerena Robles, insegnante ed educatore peruviano, membro della Junta, organizzazione sociale e politica popolare, che fa parte di Alba Movimiento. Lo salutiamo insieme a Federico Tomasone, che ha doppiato l'intervista. Tra pochi minuti andrà in onda la rubrica di Mirko, dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano sulla cultura dell'America Latina, nella quale si parlerà della burrascosa vita dello scrittore Jaime Sáenz. Prima però, un breve inedito registrato in settimana. Buon ascolto! Mientras más camina, más te alza. Si no entiendes que la fuerza para salir está en casa. Y es que en casa no nos saben educar. Falta de identidad es lo que no nos deja cambiar. No saben educar, no nos deja cambiar. Dagli Appennini alle Ande, de Amicis. Molti anni fa, un ragazzo genovese di 13 anni, figliolo di un operaio, andò da Genova in America solo per cercare sua madre. Sua madre era andata 2 anni prima a Buenos Aires, città capitale della Repubblica Argentina, per mettersi a servizio di qualche casa ricca e guadagnare così in poco tempo tanto da rialzare la famiglia, la quale, per effetto di varie disgrazie, era caduta nella povertà e nei debiti. Non sono poche le donne coraggiose che fanno un così lungo viaggio con quello scopo e che, grazie alle grandi paghe che trova laggiù la gente di servizio, ritornano in patria a capo di pochi anni con qualche migliaio di lire. Sevadiglia, San Maria. Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina. Como quieres que te quiera, si ya tienes otro dueño. Oggi parliamo di Jaime Sáenz, scrittore, poeta, romanziere, giornalista, saggista, vignettista, drammaturgo e insegnante boliviano, noto soprattutto per la sua attività di narratore e poeta. È riconosciuto come uno degli autori più importanti della letteratura boliviana e la sua vita e la sua opera hanno segnato profondamente lo spazio culturale boliviano del XX secolo. Poeta e narratore, Jaime Sáenz, 1921-1986, è nato, vissuto e morto a La Paz, Bolivia, la città che è stata il suo spazio vitale e lo sfondo permanente della sua opera. Riconosciuto come uno degli autori più importanti di tutta la letteratura boliviana, sia la sua vita che la sua opera hanno segnato profondamente lo spazio culturale boliviano di questo secolo. In Sáenz, vita e lavoro si assumono e si illuminano a vicenda. Così, l'immagine dello scrittore ribelle, emarginato, alcolizzato, notturno, nemico dell'artificio della brava gente, non solo rimanda a uno dei pochi enfant terrible della letteratura boliviana, ma è anche parte integrante di una vita che ha assunto la scrittura come vocazione monastica. Il risultato di questa vita è stata un'opera che rappresenta una visione del mondo straordinaria e originale, come poche altre nel contesto della letteratura boliviana e latinoamericana. Due preoccupazioni essenziali segnano la sua esistenza e, senza dubbio, la sua opera: la morte e l'alcol. Il fascino della morte era qualcosa che Sáenz viveva. Come racconta lui stesso nel suo libro più autobiografico, La Piedra in Mano, del 1989, visitare l'obitorio per contemplare i morti era una delle attività stravaganti della sua giovinezza. Ma in questo atto si deve vedere non solo una necrofilia, ma un'ossessione di comprendere la vita e la morte come una unità che sarebbe quella che lui chiamava, a lettere maiuscole, la vera vita. Proprio nell'oscurità, in un corpo che sta cessando di essere tale, in un'anima che si vede inseparabile dal suo cadavere, Sainz afferma di aver raggiunto la vera vita, che è, allo stesso tempo, accesso alla conoscenza trascendentale a cui aspira. Finché vive, l'uomo non può capire il mondo. L'uomo non sa che finché non smette di vivere, non sarà saggio. Che cosa avrà a che fare il vivere con la vita? Vivere è una cosa e la vita è un'altra cosa. Vita e morte sono una cosa sola. Da Opere poetiche. L'impatto dell'alcol sulla sua vita è ampiamente esplorato in due libri, il poema La Noce del 1984 e il romanzo Felipe Delgado, uscito nell'89. Sainz ha spesso negato che questo romanzo fosse di ispirazione autobiografica, ma non si può fare a meno di vedervi alcuni aspetti della sua vita personale, soprattutto quelli che si riferiscono al suo periodo di alcolismo. Sebbene sia difficile fornire date precise, il periodo alcolico di Sainz durò dall'adolescenza alla maturità, circa 15 anni, dal 1945 al 1960, durante i quali ebbe due crisi di delirium tremens. In La Piedra in Man, Sainz ci dà un quadro vivido dei suoi anni di alcolismo, attraverso la bocca di diversi personaggi. Ad esempio, la zia, la donna che ha curato e accompagnato Sainz per tutta la vita, dice: «Sembri già un degenerato che beve giorno e notte in quella cantina, bloccato lì, con i delinquenti e i ladri. Le tue urla si sentono fino in piazza, e tu non lavori e non fai niente. La tua vita è bere e bere». Da La Pietra in Man. Altrove, uno dei suoi amici esprime la sua opinione su di lui. «Perbacco, cosa si deve fare con questo Don Jaime? Una persona così rispettabile e il povero giovane sta spargendo pidocchi. Un comò è un lusso in confronto a lui, ma è colpa sua. È troppo irresponsabile e persino violento, e a volte sembra già uno di quei teppisti senza Dio e senza legge. Insulta tutti e litiga con tutti. Va in giro a gridare e a sfidare, fa scandali qua e là, e all'improvviso scende all'obitorio a profanare i cadaveri, e si fa oltraggiare e calpestare, e infine entra nella farmacia e rompe i vetri e viene portato alla polizia, e ancora si fa beffe del commissario e gli parla in non so quale lingua che nessuno capisce e che sicuramente ha inventato lui. E così Don Jaime si fa odiare». Da La Piedra in Man. In queste ultime righe possiamo vedere la confluenza dei temi principali della sua vita e delle sue opere: l'alcol, la morte e il linguaggio. Questa confluenza si sarebbe poi trasformata in opposizione, scontro e scelta, perché Sainz, a un certo punto della sua vita, si rese conto che bere e scrivere erano incompatibili. Capì che una delle due opzioni doveva essere scelta in modo radicale e definitivo. La rinuncia all'alcol fu un gesto etico e poetico, in quanto Sainz scelse la dedizione al lavoro come stile di vita, come principio che d'ora in poi avrebbe governato le sue azioni. Allo stesso tempo, questa resa ha significato la creazione di un universo poetico, la cui chiave sta proprio in quella scelta e nella trasformazione alchemica dell'esperienza alcolica in scrittura. Questa rinuncia volontaria all'alcol negli anni 60 fu uno dei più grandi trionfi della sua vita. A parte sporadiche ricadute, Sainz non beve più fino a poco prima della sua morte, avvenuta nel 1986. In questi anni, lontano dall'alcol, scrisse la maggior parte delle sue opere. Nel 1980 una delle sue ricadute lo portò sull'orlo della morte e da questo stato di trance nacque il suo testo La Noce, una raccolta di poesie si potrebbe dire terrificante, poiché dà una visione dell'esperienza dell'alcol e della morte dall'interno della sua stessa esperienza. Nessuno potrà avvicinarsi alla notte e intraprendere il compito di conoscerla senza prima essersi immerso negli orrori dell'alcol. La notte, una rivelazione non rivelata, forse un morto potente e tenace, forse un corpo perso nella notte stessa. In realtà una profondità, uno spazio inimmaginabile. Da La Noce. Questo libro è la miglior testimonianza di come l'alcolismo sia stato, per Sainz, un percorso di conoscenza profonda del mondo, un'esperienza di rivelazioni estreme, ma che solo la poesia poteva illuminare, rappresentare ed esprimere in tutta la sua intensità. Come scrive in El Escalpelo, per il poeta era necessario scrivere una lettera per vedere meglio la luce delle cose. La sua vita da alcolista ha suscitato stupore e rifiuto nella società di La Paz degli anni 50. Un rifiuto e un'emarginazione che si sarebbero mantenuti nei circoli letterari e sociali più conservatori per il resto della sua vita. Ma la sua personalità e la sua letteratura attirarono e sedussero un gruppo numeroso e importante di giovani artisti, e scrittori e intellettuali. Come raramente nella storia della letteratura boliviana, questo scrittore è stato in grado, se non di creare una scuola, almeno di stabilire un gruppo di seguaci della sua etica e della sua poetica. Si può dire che pochissimi rappresentanti della letteratura, della musica o della pittura boliviana contemporanea non siano stati influenzati da Sainz. Anche la sua importanza è stata percepita dalle nuove generazioni di videomaker e cineasti. Forse ciò che più colpisce, soprattutto i giovani, è l'aspetto romantico del suo stile di vita, che si riflette nel suo programma di lavoro e di vita sociale. Dormire di giorno e vivere di notte. Le serate con Jaime Sainz sono state per anni e fino alla sua morte probabilmente uno spazio marginale e ribelle di ricco scambio intellettuale. Le famose officine Krupp, la stanza in cui Sainz riceveva i suoi visitatori, divennero un'istituzione dove la pubblicazione di riviste letterarie, le partite a dadi, la musica di Bruckner o di Simeon Roncal, le conferenze su Milarepa e le letture di poesia erano un appuntamento fisso. Va detto che i rapporti con Sainz erano molto impegnativi. I rapporti di Sainz con i suoi amici si mescolarono più di una volta al meraviglioso e al tenebroso, nelle esperienze poetiche e magiche, con risultati non molto felici. Nasce così il mito di Sainz come amico dell'oscurità e della magia, dell'iniziato e dell'alchimista. In realtà, questa immagine è stata creata dalla diffidenza e dalla paura di un essere che si rifiutava di partecipare alla normalità di una vita che trovava falsa. Questa vita notturna era per lui, un uomo solo, accompagnato solo dalla zia, non tanto lo spazio della magia e dell'oscurità, ma lo spazio dell'amicizia, della creazione, della meditazione e del rinnovamento della fiducia nell'arte e nella vita. Un mondo con leggi e rituali propri, a volte complessi e restrittivi, ma sempre vitale e arricchente per chi lo frequentava. La pubblicazione postuma del suo romanzo Los Papeles de Narciso Lima Acha nel 91 fa luce su altri due aspetti importanti della sua vita: la sua sessualità e la sua attrazione per il nazismo. L'attrazione di Sáenz per il nazismo, simili per certi aspetti a quella di Ezra Pound, era più che altro un rifiuto della società borghese moderna e un'esaltazione dell'irrazionale e dell'esoterico come metodi di comprensione del mondo. Per questo il suo interesse per il nazismo era più vicino alla magia che alla politica. Per quanto riguarda la sua sessualità, un aspetto poco conosciuto della sua vita, non c'è dubbio sull'importanza che doveva avere il mondo delle relazioni omosessuali. Lo dimostra la stesura di Los Papeles de Narciso Lima Acha, che racconta sostanzialmente la storia d'amore tra un giovane boliviano e un tedesco. Va notato che Sáenz non si è mai definito omosessuale e la sua vita sentimentale conosciuta è sempre stata orientata verso l'eterosessualità. Lo dimostra, ad esempio, il fatto che sposò una donna tedesca di origini ebraiche, dalla quale ebbe una figlia. Questo matrimonio, in cui predominano l'elemento ebraico e l'eterosessualità, indica la difficoltà di assegnare una etichetta ai suoi interessi politici e sessuali. Come riassumere una vita così piena di esperienze, così diverse e illimitate? Forse la risposta è stata fornita dallo stesso Sáenz. Il testo intitolato Autoritratto, tratto dal suo libro Vidas y Muertes, ci dà emblematicamente il senso della sua vita e del suo lavoro. In tempi in cui camminavo a braccetto con l'alcol e quando barcollavo per strade e piazze, pellegrino smarrito in transiti tretri, intravedendo un apprendistato che tuttavia non avrebbe avuto fine, avevo la mania di disegnare autoritratti sui muri, con il gesso o con un pezzo di stucco, appollaiato sui tavoli delle cingane. A dire il vero, la mania persiste anche oggi, solo che gli autoritratti in questione non sono più dipinti sull'ampiezza delle pareti, ma piuttosto sulle scarse dimensioni di un foglio di carta. Da Vidas y Muertes. Questo desiderio, questa mania di autorappresentazione tende alla costruzione di un'immagine di sé e della propria esperienza di vita basata su rivelazioni e divinazioni. Un'immagine fatta di frammenti della propria vita, di sensazioni e sentimenti, di momenti trascendenti e non, di ricordi e anche di dimenticanze. Questa immagine, inoltre, deve essere costruita nello spazio e nella morte, nel cadavere, come trasfigurazione del tempo in un istante e in uno spazio senza tempo. Ora, questa immagine non è in definitiva quella dello scrittore stesso, che di per sé costituisce già un autoritratto che la vita stessa si sarà incaricata di scrivere per lui, come dice in Vidas y Muertes, ma è l'immagine di un mondo, il suo mondo poetico e il suo mondo boliviano. los buenos del campo esparce, alegre sus cuitas de amor. L'unica opera di Jaime Sáenz tradotta all'italiano è il romanzo Felipe Delgado, uscito nel 2001 per l'editore Crocetti. Finisce così la decima e ultima puntata di Spazio Estate Viaggi. As she gets up off the floor. Arriviamo quindi ai ringraziamenti, ai titoli di coda di questo programma. Spazio Estate Viaggi è stato ideato, mixato, fotografato e diffuso da Don Pierce. Questo programma non sarebbe mai iniziato senza l'incoraggiamento, i consigli e il supporto di Mirko Livati, che da Murcia, Spagna, si è occupato di tradurre le interviste dallo spagnolo all'italiano, nonché di scrivere e registrare la rubrica Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano sulla cultura dell'America Latina. Un ringraziamento speciale a tutti i doppiatori e a tutte le doppiatrici, volontari e volontarie, senza i quali non avremmo saputo trasmettere le interviste registrate all'origine in spagnolo. Grazie a Daniela Dello Russo, da Scandicci, Fernanda Flacco, Federico Tommasone ed Eleonora Nestola da Bruxelles, Lucia Corticelli, Carmela Longhin, Pietro Corticelli e Monica Cordioli da Verona. Un saluto a tutte le organizzazioni incontrate e intervistate durante il viaggio, oltre che ad un sentito incoraggiamento a continuare a lottare per un mondo più giusto. Sono stati ospiti di Spazio Estate Viaggi, Barricada TV di Buenos Aires, Tagliere Ecologista e Bacellierato Popolare di Rosario, Movimento Musica de Mujeres di Santiago del Estero, la Fundación Cultural Sevilla di Salta, Mujeres Creando e il Collettivo XI di La Paz, Huayna Tambo di El Alto, Dos Ovejas e La Junta di Cusco. Un forte abbraccio anche a Ricardo Solis di Oruro, a SAR Bolivia e a tutti gli attivisti e le attiviste le cui interviste non sono mai state trasmesse. Questo programma è stato registrato negli studi di Juan Camilo nella Valle del Viento e a Villa de Leyva, negli studi di Minca e a Medellín, Colombia, negli studi di Radio Onda d'Urto a Brescia, Italia, negli studi di Rududu a Goutrou, Belgio. Li salutiamo e li ringraziamo per averci messo a disposizione gratuitamente gli strumenti per registrare e mixare Spazio Estate Viaggi. Molte delle musiche e dei suoni andati in onda in questi 10 episodi sono stati registrati e mixati da Don Pierce in Sud America. Ringraziamo per le preziose note Ariel Nürnberg, Gabino Arce, Aurore Lacrosse, Gonzo del gruppo Son Soleil, la comparsita Tango Bar, i musicisti e le musiciste di Savitri Beach, i Carillon di Rududu, le acque del lago Titicaca, le onde del Pacifico e il rumore del bus di Lima. Grazie di esistere a tutti i popoli nativi, specialmente quelli incontrati durante il viaggio, e in particolare gli amici di Tres Cruces e Micha Fidel Carras. I nostri omaggi a Jaman di El Valle, che ci ha regalato la sua musica per questo programma e che potete seguire su Instagram all'indirizzo José Uribe C. Aman Lanzait. Un saluto anche ad uno dei fratelli maggiori di questo programma e di questa vita, Francesco Benedetti, per i consigli musicali, il supporto morale e le folli serate passate in Colombia. Per l'ospitalità e l'amore ricevuto ringraziamo Morgan Coudray, e Cambucha Macondo Timinca, Juan Camillo Pardo Neira ed Edu di Via de Leiva, Amilcar e Francesca di Cusco, la signora Burgos e Robert di Santa Anita, il poeta e scrittore Juan Agustín Ajuerma Salazar di Salta, Andrés, Bruno, Nina di Rosario, Austral Bugs, Rodrigo, il rifugio Oleiros, Eloisa e Carlito di Buenos Aires. Viva Roberto Bressan, che ha progettato e costruito la bicicletta che ha permesso di realizzare il viaggio. Roberto è uno dei pochi artigiani rimasti in Italia che costruiscono biciclette. Pur senza mai averci finanziato o sponsorizzato, ci ha incoraggiato durante tutto il viaggio. Grazie a Radio Onda d'Urto, una delle uniche radio libere rimaste in questo paese. Radio Onda d'Urto ci ha lasciato la libertà di lavorare in autonomia. La ringraziamo per ricordarci ogni giorno dell'importanza di lottare in qualsiasi angolo del pianeta ci si trovi. Grazie a tutti per aver ascoltato questo programma, che è stato realizzato anche con il supporto vocale di Radio Papa. E grazie anche a tutte e tutti coloro che ci hanno inondato di messaggini durante questi splendidi 3 mesi di Spazio Estate Viaggi. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i 10 episodi di Spazio Estate Viaggi più i 2 speciali sul sito www.radiondadurto.org e su mixcloud.com/Don Pierce. Io sono Giacomo Corticelli, voce principale di questo programma, autore del racconto del viaggio in bici e collettore delle interviste che avete ascoltato in queste 10 puntate di questo format estivo. Spazio Estate Viaggi finisce qui, a risentirci, forse, sulle frequenze antagoniste del Gatto Nero. Daughters, it's her eyes that fill with water, and I am much happier this way.